amici della settimana. Vi abbiamo già fatto assistere a vari incontri di assi del colpo proibito. Ma pensiamo che il nuovo repertorio di carezze energetiche che si scambiano questi due campioni possa ancora una volta interessarvi. Buon divertimento, amici! Benvenuti, nuova puntata di Lotte sui derivati. Io sono come sempre Filippo Festuccia. Oggi un cast all star perché abbiamo Alessandro Tavecchio. Hello! Alessio Garbini. Ciao a tutti! E Matteo Ricci, ammazza che entusiasmo, ragazzi. Buongiorno, cari. Ecco, almeno lui, almeno uno. Comunicazione di servizio al nostro pubblico. C'è stato un match l'altro giorno e Gianluca Iolfi ha perso con il microfono. Ha perso pulito, è stato schienato in 10 minuti secchi. Con kill switch del microfono su Gianluca. Esatto. O un prettier, perché siamo così. A scelta. A scelta. Sì. Vintage microfono. Future Hall of Famer, oserei dire. Anche. Esatto. e tra l'altro è nella mia top 5 di tutti i tempi, Cole. Il microfono, ovviamente. E quindi tornerà. Tornerà prima o poi. Ora è infortunato in questo momento. È stato strangolato. Hanno licenziato il microfono per lo strangolamento. È stata tutta una cosa. Sì, un po' di cose. Tornerà chiaramente con una gimmick di un transessuale balbuziente. Esatto. Ci teniamo a dirlo, vedrete. È in the doghouse in questo momento, Gianluca. Sì, esatto, gli stiamo dando gli ossi. Noi abbiamo saltato una puntata perché eravamo scioccati dagli eventi del mondo, praticamente. Questo è stato il motivo, ovviamente, non altro. E sono successe un sacco di cose. Comincerei da quella più clamorosa, che se me la dicevi 5 anni fa, ti mandavo sotto un treno. A proposito di mandare sotto un treno, vabbè. La TNA ne parliamo dopo. Dopo. La cosa bella è che l'ho detto senza pensarci. Comunque, ormai quella scena di Mickey James sotto il treno è rimasta nella mia testa. Una sederata verso la morte è finita così. In realtà la cosa clamorosa, oltre alla morte della povera Mickey James, è Kevin Owens, che non solo è in WWE, non solo ha un match in pay-per-view, ma batte Pulito Cena al suo primo match in WWE. E wow, nel senso, abbastanza inaspettato. Merito lo do a Matteo, non so se sul podcast o semplicemente chiacchierando aveva dato grosse possibilità a Owens di vincere, per cui... Beh, intanto vi chiedo se vi è piaciuto il match. Sì, non è... Allora, sì, esatto. In realtà, a posteriori, vedendo che fanno un rematch fra due giorni a Elimination Chamber, non Elimination Chamber, Money in the Bank, in realtà hanno fatto troppo, probabilmente. Cioè, nel senso, hanno tirato fuori... perfino Cena ha tirato fuori mosse che non tirava fuori mai, sono calciati fuori da qualsiasi... mossa possibile e immaginabile, quindi siccome il prossimo match non è a stipulazione, probabilmente per pinnarsi o fanno una fuck finish, una DQ o qualcosa, o devono dare fuoco alla gente, perché altrimenti non si spiega. Sì, che è una possibilità. Però voglio dire, sicuramente è il miglior match del pay-per-view, anche perché non è che abbia avuto grossissima concorrenza. Onestamente, andando a memoria... forse il miglior match di questi sei mesi WWE? L'unico altro match degno di nota che mi ricordo è il triple threat della Royal Rumble con Cena, Rollins e Lesnar. Sì, e volendo contare, c'è quello di Rival tra Owens e Sami Zayn. Anche Contare poi, beh, certo, se vuoi contare NXT ce ne sono, comunque, per carità, ce ne sono un bel po', sì. Soprattutto con Zayn o in generale, ecco, tra l'altro, e poi torniamo sui vostri commenti sul match se ne avete di particolari. Proprio NXT si trova in una situazione un pochino particolare, nel senso che il campione ovviamente è impegnato in un programma che sembra abbastanza grosso nel main roster. Questo porta fondamentalmente a uno scenario in cui Owens potrebbe effettivamente perdere il titolo prima di quanto pensassimo, perché noi facevamo dei discorsi abbastanza lunghi del ritorno di Zayn e tutto quanto. In realtà ora Finn Balor, un match titolato nello show in Giappone, potrebbe anche perdere lì Owens. Lo dico, cioè secondo me il titolo di NXT a Owens ha senso, molto senso, se Owens ha Zayn come sfidante. Senza Owens ne può fare tranquillamente a meno ormai, perché la sua rivalità con Zayn, l'amico d'infanzia, no, comunque con cui è cresciuto nel wrestling e tutto il resto, è basata molto su quello, cioè io me ne frego, sono qui per un solo motivo. Cioè lui paradossalmente è il fino al midollo, ma con un ragionamento totalmente logico, ed è quello che è bello del personaggio di Kevin Owens, perché lui dice ok, io sono il, però il discorso che poi ha fatto a Raw nel post Elimination Chamber, promo devo dire splendido sia suo che poi di Cena, la risposta di Cena, tranne un paio di vaccate, tranne un paio di vaccate classiche, ma quello fanno parte chiaramente del suo personaggio, che deve fare sempre un po' la pantomima sul Cancer Baby, queste cose qua. Però per il resto anche Cena erano, sono sincero, anni che non tirava fuori un promo così accurato e così profondo. Cioè si vedeva che era preso finalmente da una rivalità. Cioè, probabilmente erano anni che lo stesso Cena, secondo me, non aveva una rivalità che gli piace. E si vede dal promo, secondo me. Anche. Quel promo lì è stato davvero fantastico, secondo me. Soprattutto la parte di Cena, perché, come stavi accennando, erano anni che non si vedeva un promo così strutturato, ben fatto, che comunque va oltre al semplice personaggio di Cena che hai in tutti i suoi feud, da quello con Rusev a quello con Big Show, eccetera. E il match di per sé è stato un ottimo, ottimo incontro, come abbiamo già detto. Bisogna vedere adesso come la vogliono proseguire. Sì. Anche perché se Zayn torna a ottobre, come si diceva, sì, l'ipotesi di piazzare la situazione, di trasformare una situazione a tre, diventa infattibile adesso. Sicuramente. La situazione nel titolo di NXT, tu dicevi, c'è questa strana situazione per cui hai il tuo campione che è impegnato nel main roster. In realtà, visto come sta trattando il triplo, perché ce l'ha in mano lui, il brand, non è un grosso problema. Secondo me dovrebbero usare Steen, cioè Owens, scusate, abitudine, sì, vabbè. come stanno usando Lesnar, cioè nel senso, nel momento in cui adesso gli faranno schiantare Joe, gli faranno schiantare Balor, anche perché l'hanno già fatto in precedenza e Balor dovrebbe arrivare nel main roster a breve, e lasci Steen, gli serve una data per registrare 4 episodi di NXT, sì, lo puoi tenere tranquillamente fuori da ring NXT, tanto lui non ne ha bisogno, mentre c'è gente che ne ha tanto tanto bisogno lì. Voglia. E tra l'altro con la serie di infortuni sfortunati che c'è stata con sia Kenta, Itami e Sami Zayn, oggi sei vintage. Oggi sono vintage. A sto punto di punto di generico. Sì, esatto. Mi ricorda il fatto che, se, insomma, seguendo un po' Total Divas, le persone che non conoscevano Bryan Danielson da prima lo chiamano Dan, sì, che è l'abbreviazione del cognome, che non è ha meraviglioso, senso, in effetti. Però Ryback, quando ha ricevuto la cintura a Raw, Ryback e Bryan erano compagni di viaggio, sono stati compagni di viaggio quando erano a SmackDown, sì, per un sacco di tempo, forse anni addirittura, e l'ha chiamato Dan. Quindi deve essere, cioè, è proprio un'abitudine che hanno preso in WWE, sì, evidentemente. Esatto. Ormai lui, Daniel, Bryan, Christopher, va tutto bene. Tutto bene. Comunque, devo dire, il match Owens-Cena ha salvato Elimination Chamber, che è forse, tolto quel match, uno degli eventi più brutti della storia recente WWE. Oddio, non lo so, nel senso che ormai mi sembra che lo diciamo a ogni evento. Questa volta sì, perché tu avevi innanzitutto due gimmick match come l'Elimination Chambers, che di solito, nel bene o nel male, anche se è una proto vaccata, è sempre comunque adrenalinico, sì, sempre un match veloce, o comunque un match, se non lo fai veloce, lo fai, ci metti dentro comunque un po' di violenza, lo spottone. Per esempio, quello dei match, quello comunque innovativo, tra virgolette, perché poi è stata un po' una caciara, dei titoli di coppia, però fino, diciamo, alla vaccata dell'eliminazione di Cesaro e Kid, era comunque un match piacevole. Poi non gli dai più di 6,5, per carità. Sì, nel senso, piacevolino, però comunque, cioè, c'era gente piacevole, lì, c'era comunque un buon match d'apertura, diciamo. Un buon match, comunque, però ecco, comunque rimane lì, cioè non dici che è schifo. No. Quello per lì sì, è un, Madonna, è un tragico, un disastro vero, ti... un disastro, cioè si sono persi nel nulla il momento in cui Harry è entrato a buffo. Ecco, allora, non sapevano cosa è fare. È successa una serie di cose pazzesche. Volevo al volo parlare del titolo di coppia, perché ne stiamo parlando tanto di podcast in podcast, perché è una situazione effettivamente vivace e interessante rispetto agli anni scorsi. È vero che sono stati fortunati, tra virgolette, nel senso che loro hanno in questo momento, tra virgolette, un pochino accantonato Cesaro e Kid si è infortunato dopo. Quindi, per sempre, botta di fortuna. Il che togliere le uniche due coppie decenti, Usos e Cesaro e Kid, tra l'altro. Sì. Perché ora un feud tra i New Days e Matadores. Anzi, come ho letto stamattina, no, si parlava di... Prime time players. Si parlava di un feud tra i Lucha Dragons e Matadores, con in mezzo il Torito che passa dalla parte dei Dragons. Sì, quindi... non voglio sapere queste cose, guarda, te lo dico, non me ne dire. praticamente il problema della costruzione del match banalmente è: tu dici, ok, Cesaro e Kid hanno avuto sono stati campioni, hanno avuto il rematch, perfetto, li mettiamo un attimino da parte, è una rotazione, ci può stare, mica devono sempre essere le stesse coppie. No, no, assolutamente. E dici, ok, prime time players, tu li fai arrivare alla fine e li fai schienare dai campioni, quindi perché a me deve interessare un match tra i New Day e i prime time players? Sì, i prime time players sono già stati schienati dai campioni. Non solo quello, ma tutta la prima parte della chamber di coppie è stata dominata dall'Ascension, che ultimamente aveva sì, perso con anche... Dominata completamente da due imbecilli. Che sì, tra l'altro guarda, sono anche i più inesperti a livello di anni sul ring di tutti gli altri. Esatto. E si è visto, quindi gli hai dato in mano... Sì. Quello sì, sì, è sì. Kalisto, che io non so cosa ci stiano a fare gli agents in WWE se gli lasciano fare degli spot del genere, che chiaramente non è in grado di fare. Cioè, io gli voglio anche bene a Samurai del Sol, però... Esatto. Sì. Però dei mistiming allucinanti, cioè... Beh, è rimasto appeso a quella gabbia tipo 45 minuti. Ma poi sul io credo che volesse fare lo spot famoso di AJ dell'Ultimate X, sì, con lo springboard sì, drop sì, kick di Sabin, esatto, sì, solo che non è riuscito a darsi lo slancio perché esatto, la si è lasciato cadere senza senso sulla gente che lo ha aspettato anche, diceva. Quindi e allora un altro commento caschiamo sui prime time players che mi è venuto sia vedendo la chamber sia poi Raw dopo. Si dice tanto di Ryback perché c'è stata l'intervista di Punk eccetera, ma credo sì, che Titus O'Neil sia uno dei wrestler meno sicuri con cui lottare della storia, cioè sì, lui prende, te ti via, lancia te e ti dice buona esatto, fortuna, fa, dice vai, sì, esatto, sì, sì, casca, vai, esatto, che poi è un peccato perché lo vedi che ha una presenza ottima, si muove discretamente tutto quanto, però è proprio va lui così, non ci una pensa, una cosa imbarazzante, non una punizione abbastanza lottare con lui. Beh, comunque Titus ricordo che volevano pusharlo, è comunque visto bene nel backstage, se non ha ancora avuto un push decente, diciamo che questi limiti che stiamo evidenziando sono noti, questi più sì, limiti, beh, questi sì, problemi sì, che ha. È sì, anche sì, una certa età, per cui io lo pushi adesso, mai più, perché ha quasi 40 anni Titus, mi sembra. Io andrei sul mai più tranquillamente, sì, nel senso che... Esatto, il mai più va bene. Sì, esatto. Sta là, non è che lo voglio ma via. Voglio dire, da rispetto lì, a tanti altri, connette con il pubblico, che in teoria è la cosa più esatto, quello sì, esatto, ma ma va benissimo. Tutti e due, cioè proprio i prime time player alla fine comunque piacciono un po' sì, al pubblico, comunque sono simpatici, fan lì, fan colore. Che sì, infatti, però, ok. Scusa, e ci ho pensato dopo. Scusate, so. Se li incurano, soprattutto da Ren Young. Sì, esatto. A questo punto dovrebbe uscire fuori il fantasma di Gianluca, perché sappiamo la sua esatto, predilezione per la tipologia umana. Comunque. Stai la dicendo chamber, qualcosa di serio, Alessandro? La chamber per sì, lì sì, volevo passare direttamente alla chamber. Sì, perché è stato purtroppo la situazione del team con la morte di Tyson Kidd, che sarà fuori per è morta, sì, è morta anche lei, morta, sì. Anche sì, perché Tyson Kidd è stato buttato sotto un treno ok, è andato anche lui in TNA, non sapevo. Esatto, è la nuova metafora di, no, per andare, no, il fortunio di Kidd è brutto, sì, cord injury, il fortunio di Kidd è... non si sa niente di più, sì, perché no. Adesso la nuova policy della WWE è non facciamo uscire non nessuna notizia, non diciamo un cazzo se no ci fanno causa a prescindere. Esatto. Ormai è così, guarda, per capirci sul match per il titolo intercontinentale, Matthew di Boccia Mania ha fatto un post dicendo: è vero, mi hanno scritto tutti mentre guardavo il pay per view dicendo dai, questa roba la devo mettere, ma io ho avuto pena. E me ne rendo conto, cioè è un match che mette tristezza, perché io penso che la rottura della parete della camera di Henry è stato un incidente. Sì, chiaramente. Sicuramente. Credo anch'io. Chiaramente, perché c'è stato un momento di non so, esatto, cosa fare, a esco. A quel punto Mark Henry, che lotta in WWE da 20 anni secchi, forse sì, 21? No, era 96, arrivato 96? 96? Sì, mi sembra 96, quindi 20. Facciamo 20 anni. Si è pietrificato, ha detto oddio, cosa faccio? E ora? Le regole dicono che devo uscire quando c'ho la lucetta, cioè è questo, capito? Quello, poi c'è stato, a quel punto, hai visto come si è andata nel pallone tutta la macchina produttiva WWE? Perché cosa è successo? Che hanno mandato in confusione i telecronisti, hanno cominciato a dirgli le cose sbagliate, l'unico poraccio che ha provato a tenere in piedi il match era JBL da fuori, che è stato l'unico, ad esempio, che ha parlato di Sheamus che prova a tenere chiusa la porta con la croce. È stato l'unico, gli altri non stavano capendo cosa stesse succedendo, sono stati andati nel pallone più totale. C'è stata una paralisi di quattro wrestler in contemporanea, che poi è degenerata nei roll up più brutti dai tempi del match delle Divas. Sì. Una cosa che... E tra l'altro roll up, che essendo roll up impiegano due lottatori alla volta, quindi ad un certo punto c'era R-Truth che stava cercando di pinnare qualcuno e altri due lottatori fermi lì sopra a guardarli. Beh, Henry è entrato e ha rotto un pin in un match eliminazione, cioè cose proprio è entrato e ha detto basta, tu non lo schieni, perché? Non lo so, va a tuo favore, esatto. Ma allora partiamo dal presupposto che il match in sé, allora, è nato male. Poi ci sono stati partecipanti. Sì, e poi ci sono stati infortuni, sono incasinati. E quindi già parti male con la scelta dei partecipanti. Che però tu dici, ok, levato Brian, quindi tu volevi far elevare, diciamo, quel titolo, come hai fatto con Cena col titolo US, quindi no, volevi cercare di dare un minimo di vita. E tra l'altro la tua scelta per rilanciare questo titolo è affidarlo a Ryback adesso. Esatto, per questo dico, cioè si parte con un'idea, quest'idea muore, e qui ormai abbiamo capito che la WWE, nel momento in cui ha un'idea e muore un'idea, non sanno più cosa fare, cioè loro hanno un'idea, non hanno l'idea di e se succedesse, e se dovesse succedere, e non c'è lei. E io già ringrazierei che ne hanno una. Titolo a Brian, poi vediamo, Brian è morto. Sotto un treno, basta, pure lui. Basta. Chiaramente, e tu dici ok, quindi c'è, ok, facciamo un pay per view gratis, così la gente viene da noi e ogni mese facciamo il network. Sì, gratis. Lo facciamo no, a tra l'altro, una settimana. Attenzione, perché la questione solo per i nuovi subscriber. Esatto. E tra l'altro, la genialata è stata il fatto che tu per togliere il network dovevi disiscriverti alle 23:59 del 31 maggio, cioè quando c'era il pay per view, esatto. E la maggior parte delle persone non l'ha fatto, quindi si sono guadagnati il mese dopo, della gente, almeno, di un bel po' di persone. Poi la gente ha visto la chamber per lì, sì, e si è suicidata. Sì, è per questo che non sono riusciti a scollegarsi. Esatto, a scollegarsi. Quindi tu avevi quello, poi a un certo punto dici, ok, facciamo la chamber per lì, sì. Chi ci mettiamo dentro in una elimination chamber? Ok, devi mettere ovviamente i wrestler che nel mid-upper card sono quelli che ti possono assicurare comunque uno spettacolo, che possono essere il o meno, o che almeno tra di loro hanno un feud, qualcosa, una rivalità, sì, un minimo, perché non fa era sempre comodo una rivalità, certo, singola. Non era malissimo, guarda, non sarebbe stata male se non si fosse infortunato Rusev, a livello di, perché c'era metà della chamber che erano Sheamus, Ziggler e Rusev Che esatto, incrociati. potevano intervenire. Ok, ti si rompe Rusev, la tua scelta doveva essere solo una, Stardust. Perché, per quanto sia, almeno Stardust aveva comunque un po' un qualcosa con R-Truth, quindi potevi anche metterci dentro, mettevi comunque un qualcuno che insieme a Ziggler poteva dare quel po' di agilità rispetto ai paracarri, comunque all'interno della scena, che mettono solo Sì, potenza, ma quindi potevi metterci qualcosa. Hai messo Mark Henry, esatto. senza Ma alcun Stardust senso. serviva per jobbare nel pre-show, quindi in un No, ha match vinto. non Ha annunciato. vinto? Ha Contro chi ha vinto. Ha vinto, povero? vinto. Dai. Oh. Contro chi ha vinto? Non l'ho Povero. visto. Io, a Ho sto dato punto per veramente scontato potevi che perdesse. prendere Amel vestito da Green Arrow, ce lo mettevi dentro, era meglio, per Dio. Cioè, era O meglio. comunque la scelta di Stardust aveva senso perché si era parlato molto di Stardust per via del piccolo scontro avuto con Stephen Amell a Raw. Quindi, insomma. Esatto. Che comunque pare voglia andare avanti, quindi comunque Sì, bisogna dargli un esatto. minimo di visibilità che non può essere solo sul network. Anche che tu voglia fare un feud secondario, no? Che ci può anche Sì, stare, no? perché. Perché comunque sono quelle piccole cose che in WWE alla fine ci stanno, sono simpatiche, sti Ma cavoli. poi Amell non è una grossa star, ecco, No, noi lo esatto. conosciamo bene perché seguiamo quel tipo Siamo di dei prodotto nerd. Da particolare. bravi nerd. Da Esatto. bravi nerd ci piace. Ci Esatto. piace Arrow. Però a prescindere da quello, comunque tu gli devi dare quel minimo di visibilità. L'hai fatto sul sito, gli hai fatto fare un mini promo contro Amel. Cioè, prendi e lo butti La nel Chambers. pre-show con un match che non doveva esistere, invece di metterlo nella Chamber. Chamber della quale, cioè, lui doveva far parte anche per storia del titolo in sé. Sì, sono d'accordo. È anche vero che in Ci teoria, poteva in stare. Oh, teoria. quel titolo bianco l'ha Ricordo riportato questo. lui. Sì, è anche vero che in teoria in questo momento era un po' quello, diciamo, fuori contesto. È vero che aveva lavorato con R-Truth e tutto quanto. È anche vero che in questo momento odio usare questa parola, ma forse lo status non era quello Sì, ideale. ma perché quello di Harry qual è, scusa, di Beh, quello di status? Henry è È quello grosso e di mena. sorpresa. Ma Perché io Harry, e quando poi hanno. comunque Harry funziona sempre sul grosso pubblico Quando hanno americano almeno. annunciato che sarebbe stato un ex campione del mondo, mi aspettavo sicuramente Big Show. Anch'io, Sì, beh, quello è classico. anch'io, cioè, è un People love Big classico. Show. E invece sono stati, probabilmente perché volevano proteggere Big Show dal non prendere una sconfitta nella Chamber, Certo, chiaro. hanno infilato Henry. Utilissimo Chiaro, ma per Ma il dire, principio è il faceva così medesimo, è schifo. grosso, picchia. Wyatt faceva così schifo, Non mettercelo dentro, potevano a farlo caso. perdere, dovevano farlo perdere a Raw il giorno dopo da Esatto. Reigns. Ah, Sì. beh, giusto, No, ok. ecco Chiaro. perché in questo momento, oltretutto, Boh. Wyatt è stato gestito come pedina dell'Authority, cioè è morto il suo personaggio a Raw. Sotto un treno. Sì, Sì. è morto sotto un... Un Basta! È treno. morto sotto un treno il suo personaggio a Raw. È mandato giù con una culata da Triple H, nel senso Sì. che non si può gestire Wyatt come pedina dell'Authority con quel personaggio lì. O è No, un ovviamente. personaggio centrale tipo Undertaker Ministry of Darkness e non è ancora a quel livello di No, personaggio, per non lo sarà, carità. credo mai, però bene. Soprattutto se continua a fare queste robe, non si sa Esatto. mai. Per cui sì, oltretutto, per dare una vittoria a Reigns, nel momento in cui tu hai deciso che a Elimination Chamber Reigns non c'era, cioè non era proprio là, No, era a esatto. casa a bere un Malibu, dov'era? Voi Non lo non so più. sapete dov'era, giustamente, Reigns, che ne No, sapete? no, nel senso, no, vabbè, C'è stato il c'è stato segmentino. il segmentino in cui il gaudioso, il gaudente Triple H è arrivato lì, gli ha detto: "Ah, sì, comunque se appari, ciao." Quindi meglio che non appari, levati dal cazzo, fondamentalmente. Ora, Se no, licenziato, via, random, niente, normalmente quello che quando vuoi. c'è questa cosa, dopo quello appare. E rischia il licenziamento, bla bla bla. La logica Sì, è non quella. l'hai fatto, esatto, sì, No, quello ci non so poteva perché. stare, Ma però perché a diciamo che frattaresse le cose, dalla costruzione che stiamo facendo, mi pare però abbastanza li evidente hai che già si punti a un affrettati. SummerSlam 3-3 Shield. Io ho un problema con questa cosa, non perché non voglia vedere il match, ma perché noi abbiamo già avuto i tre dello Shield con un altro nel match. Quindi il match che ci stanno hypando è lo stesso main event che abbiamo avuto, meno uno. Sì. E più che altro la cosa è che a Less is me more. interesserebbe vedere il match con tutti e tre dalla parte di nessuno. Sì, esatto. Cioè, bisognerebbe arrivare a un punto di rottura anche fra Ambrose e Reigns, di modo che tu alla fine hai un Rollins che già a me sinceramente, dopo tutto quello che è successo nel match di Elimination Chambers, col finale un po' particolare, che come poi diceva giustamente Alessandro con senno di poi, ci stava, anche se a me lì vedendolo live, sì, ho visto live il pay-per-view, lo ammetto, lo giuro. E pensa che avevo le ferie, quindi. Ah, ok, no, se potevo, ok. Quindi l'ho visto live, e lì per lì magari sei rimasto un po' scioccato, sia dal risultato, perché lì per te ha vinto Ambrose, quindi sei rimasto così, cioè io sono rimasto di sasso, ho detto non ci credo, l'hanno fatto, pulito, secco e netto. E poi col, diciamo, col finale, che effettivamente lì per lì ti dici no, porca troia, ha fatto la vaccata, invece ci sta, perché una vittoria così un po' netta in un pay-per-view minore... Che poi è un po' lo schema loro solito che usano con, diciamo, l'underdog, tipo Orton con Brian. Esatto, queste cose così. Però se poi si arriverà, cioè per me è fondamentale che a un certo punto questa, diciamo, alleanza, amicizia tra Ambrose e Reigns... Scoppi. Deve scoppiare, perché deve scoppiare perché non c'è solo, in palio qualcosa di non più. Non solo, deve scoppiare quella e Rollins deve... essere deautoriticizzato, per questo motivo esatto, mi è piaciuto molto esatto no da questo il fatto che proprio contro tutta l'authority lui ha detto no, mo mi sono rotto le palle, devo dimostrare di essere veramente un uomo, quindi ok, accetto il match da solo, non mi rompete le scatole, ci sta, sì, e sì, spero sì. Sia così la dusty finish dell'Elimination Chamber. Secondo me è stata fatta apposta per provare se avevano affossato completamente Dean Ambrose o meno. Vabbè che il pay-per-view era Corpus Christi, però la Dusty è stata una Dusty finish esattamente come Dusty Rhodes le buccava nell'82, sì, forse anche prima. Esatto. Serve proprio a vedere il pop, la reazione del pubblico nel momento in cui Ambrose vince inaspettatamente. E ha avuto un successo relativamente buono, per cui non succede... Ma se succede, la mia idea sarebbe di tornare Reigns a questo punto. Sì, gli fai prendere, gli fai vincere il Money in the Bank. Nel main event di Money in the Bank fai vincere Ambrose su Rollins, che deve solo prendere la cintura, e a quel punto fai incassare Reigns, lo fai tornare heel su quello che aveva fatto l'amicone fino a 2 ore prima. E secondo me funziona benissimo, perché così hai risolvi tutti e tre i problemi contemporaneamente di e avere la cosa bella ciascuno sarebbe... dalla sua parte, specialmente chiaro, perché sì, come dicevate voi a Raw, Rollins sta lavorando su staccarsi da Triple H. Esatto, infatti lì il bello poi sarebbe appunto il fatto che a un certo punto Rollins perde perché non ha avuto una mano, diciamo, dall'authority, quindi lui avrebbe un momento, diciamo, di sconforto, come per dire ok, senza l'authority non sono nessuno, e ci sarebbe chiaramente un miglioramento probabilmente poi del personaggio, perché lui vorrebbe anche a livello di orgoglio cercare di migliorare. Ci sarebbe un authority che probabilmente a quel punto ti odia perché ha perso il titolo per colpa tua, perché tu non hai voluto una mano, perché quindi non sei nessuno, non sei degno, e a quel punto sarebbe appunto con un turn di Reigns, sarebbe figo se alla fine tutto calcolato, che Triple H è riuscito a convincere Reigns a prendere il posto di Rollins. Detto questo, mi sembra tutto, cioè un giro credibile, proprio di, no? Mi sembra tutto assolutamente credibile, però il mio problema con questi scenari è il turn heel di Reigns, non perché io non penso che sia giusto, ma perché io non penso che succeda. Ma soprattutto lui non è in grado di reggere un turn heel. Può essere, non lo da so. Da solo sì, con l'authority no. Cioè nel senso, da solo non è in grado di essere heel. Con l'authority, alle spalle sì. Però il problema, quello dico io. Il problema è come, cioè, quando un mastino. Ne parlavo nel post WrestleMania, in cui parlavo della possibile opzione a quel punto per risalvare Reigns. O lo tenevi face, come l'hai fatto fino adesso, gli facevi calare un attimo la posizione nella card, lo tenevi un attimo soft con feud, magari con show, eccetera, oppure c'era l'opzione di un turn heel, ma a quel punto lì devi davvero fare le cose per bene in modo da verificare che sia in grado di reggere, perché il punto è che loro non lo vogliono bruciare. E... sì, e che comunque Reigns non solo non è mai stato heel da solo, in carriera, Credo, perché poi la sua carriera È è iniziata, sì, contenuta. da Sì, lui è io non mi iniziata, risulta quindi. sia stato io. E non solo quello, ma oltretutto Reigns dei tre è quello che ha microfono un pochino più di difficoltà. È migliorato. Perché è migliorato? Sì, rispetto alla citazione dell'Unitools è Vabbè. migliorato un botto, sì. Sì, esatto. Era difficile scendere. In realtà adesso l'ultimo Raw, vabbè che l'hanno fatto lottare 3 volte e quindi poi alla fine il pubblico ne aveva le palle piene, però aveva delle buone reazioni da face, Reigns, e credo che Sì, sì, molto sì. nella Sì, soprattutto. ricostruzione sia dovuta proprio a questa associazione con Dean Ambrose. Dean Ambrose che l'anno scorso ha perso 12 pay-per-view su 13 o qualcosa del genere, perché ha jobbato a manetta la Penso sia prima stato uno dei volta. pochi a perdere con Wyatt. Ecco, mentre adesso, nonostante ciò, ha mantenuto una certa quantità di hit e adesso gli hanno associato Reigns riuscendo a fare quello che non erano riusciti a fare con Bryan, cioè Sì. associarlo a un face più popolare di modo che per osmosi prendesse un po' di Beh, con Brian comunque c'era la questione che overness. veniva visto come Sì, un era usurpatore del ruolo. un discorso completamente differente, però Esatto. sono riusciti a legittimarlo. Però Sì, che questa un po' hanno legittimazione, secondo ripreso. me. Hanno un po' ripreso quello che era la situazione all'interno dello Shield. Cioè, quelle due o tre mosse, quella parola chiave al momento giusto, ed era andato straover. Però ovviamente, una volta abbandonato a se stesso, abbiamo visto cosa è successo. Sì, ecco, io penso che tolto appunto un pubblico comunque molto smart, in una situazione di booking in cui quello non era il posto suo, era un posto percepito un po' come usurpato, a me sembra che il pubblico segua abbastanza Reigns da face. Sì, magari non Sì, sì, è sì. il seguire più profondo del mondo, è una reazione un po' tipo alla Randy Orton, o arriva, è arrivato, però comunque è con lui, che non è Però poco. è il classico. è con lui da solo, Io come appunto, oppure come dice penso. Alessandro, è con lui perché attualmente è associato in maniera Ma guarda, automatica ormai quasi alla situazione di io Ambrose. penso che prima della Rumble, e diciamo quindi nella seconda metà dell'anno scorso, Reigns me lo ricordo molto over da solo, Sì, che è il motivo per cui l'hanno pushato quello è fondamentalmente. vero. Ecco, bisogna vedere se può essere over da solo dopo quel casino là. Capisci quello che Che è dico io? Allora a questo? questo Non lo punto, so. visto che io lo vedo sempre associato a qualcosa, cioè da face attualmente associato ad Ambrose, è successo probabilmente per quello, perché fondamentalmente in questo momento Reigns è la guardia del corpo di Ambrose. E Adesso questo è non vero. E scherziamo. questo è vero. Poi tu lo puoi pure pushare contro l'Authority, 3 match, perché se no non vai a Money in the Bank. Sicuramente vince Money in the Bank e ci sta. Sono sincero, ci sta anche che Reigns prenda la Beh, quando gli valigetta. altri nel match sono Kofi Kingston e Esatto, visto, Kane. esatto. Visti i partecipanti di cui hai Ma Kofi e Neville che tanto devono star lì a fare una Neville. shooting star 9740 dal tetto e morire su una scala. Domanda. Ok. E li metti lì, perché tanto è quello. Sì, Spiace per Neville, ma è il suo domanda un ruolo tanto attimo nella WWE. per capirmi io. Money in the Bank è prima o dopo dello show in Giappone? Del tour in Giappone? Prima. Prima. È Prima. prima, È ok. settimana prossima, Giappone è non inizio questa. Ok, luglio e il pay-per-view è metà giugno. perfetto. No, Domenica perché, no, prossima. perché Sì, è così. domenica Ok, prossima. perché così Kingston è vivo. Che Sì, sì, era sì, sì, quello il sì. mio problema. Perché Esatto, in sì. Giappone. Allora, Sarà perché un cosa è match della successo? Madonna. Cosa è Se gli successo? lasciano fare il match. Quanto reggerà Kingston? Perché a logica dovrebbe durare 3 secondi, In chiave almeno. Mark Ma se ci Smart di metti i New violino. Day che interferiscono, fai un po' di Esatto. overbooking. Dai, Va là che 2 o se gli 3 dai. minuti per disfarsene di tutte e 3. Va là che se gli dai 10 minuti a quei due ti viene fuori un match della Madonna. Sì, ma è logico. No, ma Cioè, nel infatti. senso, comunque ha distrutto Cena, ha distrutto Reigns, non può metterci più di 5 minuti per far fuori Kingston. Sì, però sai, Chiaro. un po' di overbooking, appunto, come diceva Sì, però. Alessandro, le cose possono fare. No, per spiegare, perché Sì, sennò siamo però a partiti questo punto dice chiaro. senza. Vai, vai. Praticamente è successo che Brock Lesnar non sarebbe dovuto essere nel tour giapponese, perché Brock Lesnar non fa apparizioni di questo tipo. Non fa house Assolutamente, mai. Lui non fa tour, non fa niente Brock Lesnar. Però ha detto, ma io in Giappone vorrei salutare delle persone. perché devo andarci a spese mie? In effetti, deve riportare la cintura, probabilmente. Sì, anche tra l'altro. Sai, quando guadagni 700 euro al mese è giusto che ti fai queste domande. Esatto, no? Esatto. Lui ha detto: perché devo non dare da mangiare ai miei figli per pagarmi un biglietto aereo? Magari doveva prendere il treno. E Mickey James si sì. È rovinato. Esatto. Esatto. Sta aspettando in stazione Lesnar in questo momento. E c'è la vocina di Trenitalia. Sì, per cui ha detto, vabbè, vado. A questo punto la WWE ha detto, ok, però con chi ti mettiamo, che cosa facciamo? E gli è andato uno a caso. Sì, ma perché? Cioè, ce ne sono tanti a caso che gli potevi dare. Ma secondo me Kofi probabilmente è l'ideale. No, io sì, e sono d'accordo che non è una brutta scelta. Secondo me li hanno messi tutti in una stanza, hanno detto faccia un passo avanti chi vuole andare con Lesnar, no, e sono andati tutti indietro. E sono andati rimasto con un idiota davanti. Chi volevi tu contro Lesnar? Ma allora, se mi chiedi chi volevo contro Lesnar, la mia risposta è non ne ho la più pallida idea, nel senso che avrei messo tipo un qualcuno di NXT, però siccome poi mi sono stitolato... Gio, nel senso, vabbè, per vabbè, me la vabbè, vabbè, vabbè. Sarebbe stata metterci, se non fosse stato rotto Itami. Sì, ci avevo pensato anch'io. Prendevi due che in Giappone... Ma Itami però sono proprio due stronzi. Doveva feudare con Steen, cioè con Owens. Sì. E ok, però sai, il problema è che in realtà questo era un house show. Sì. Che è diventato tutt'altro. È diventato sì, probabilmente solo grazie a Lesnar. No, no, c'è la questione che in Giappone il network sta per debuttare, comunque ha appena debuttato, anche per quello è il motivo per cui hanno Itami a NXT. Sì, hanno no, cioè, lo dico, no, il fatto però era un house show. Questo è diventato uno show alla fine, tipo One Night Only alla fine, perché questo sì, è esatto. Che va sul network, però è ufficiale, tant'è che sul sito lo pubblicizzano, non è che dicono, oh, ecco le foto del tour in Giappone, no, esatto. Come fanno di solito. Fondamentalmente è parte della loro strategia di questo periodo che ogni giorno decidono una cosa nuova. Esatto, però che adesso mi viene anche, una domanda. Anche luglio dovrebbe essere gratis, sentivo sì, ieri sì, Meltzer sì, dire. Sì, ok. Però a questo punto la mia domanda è, visto che un house show dove poteva apparire chiunque, no? Che in teoria non doveva esserci a questo house show Jericho Balor, scusate. Sì, c'è Jericho Balor. C'è nell'altro, no, c'è quello che quello non va live. In onda, perché Balor in quello no, che scusami, va in onda... c'è Jericho Neville in questo. Jericho Neville, perché Jericho... Quindi Jericho appare in TV. Due volte. Sì, appare su... Sì. Che però c'è la questione... Stanno facendo un casino allucinante. Tra l'altro la questione... Sì, se anche Elimination Chamber non vengono considerati come pay-per-view o comunque come se vadano in TV. Vengono considerati no. Come live show. Quindi vengono pagati come live Beh, show. Sì, perché ai... effettivamente non era un pay-per-view. Esatto. Tutti gli effetti di Elimination Chamber come termine tecnico. Questo rientra su una questione che è stata uno dei discorsi al centro della... diciamo diatriba tra CM Punk e la WWE, perché sì. CM Punk era stato uno degli unici a dire scusate ragazzi, visto che non facciamo più i pay per view tranne WrestleMania, un paio di altri non vanno in pay per view, e i soldi? Esatto, che è legittimo, è una domanda sì. Assolutamente legittima, specialmente per i lower card. Sì, esatto. Non magari da chi guadagna 2 milioni, però vabbè, niente, no, non fate no. Parlare di CM Punk, no vabbè, però lui il suo discorso lì era, no? Dice non capisco perché gli altri per gli altri diciamo grossi non ne sì, parli sì, no, perché, giusto sì. No, per carità è un discorso giustissimo, diciamo sì, che era... come la Serie A che sciopera perché in Serie D non gli danno gli stipendi, cioè non ha senso, però ha senso. Vabbè. Nel senso che se non sciopera il top non scioperano gli esatto, altri esatto, in teoria esatto, è ovvio, non hai visibilità, mettiamola esatto. Così poi magari se lo fai vabbè, non dopo, però ok. Detto ciò, cambiando sponda parecchio, senza tornare sui prime time players. Scusate, forse la taglio, non lo so. No, no dai, siamo... perché è così bello non essere politica di corre. Che cazzo, esatto. Cambiando sponda, passando diciamo ai treni al binario 2. Esatto, passando al binario 2, è successo che Meltzer, smentito da altri autorevoli insider come Vincenzo, quindi diciamo che è dibattuta questa cosa, molto però dibattuta. Pare che non è molto dibattuta in realtà. A settembre Destination America dovrebbe non rinnovare Impact. nella sua programmazione. Perché praticamente c'è un'opzione per rinnovare e non rinnovare. Pare che Destination America abbia detto grazie, grazie delle memorie e andate in pace. C'è tutta una serie di discorsi, perché poi uno se no è abituato a leggere i numeri e dice non hanno senso. In effetti hanno senso, nel senso che Impact è il programma che fa più ascolti nella storia di Destination America. E di parecchio, e di parecchio, sì, sì. Perché siamo, Destination America sta sui 70.000 e Impact stava 450-500.000. Sì, con le repliche arrivava anche quasi a 600.000, tra l'altro. Esatto, sono numeri che per il canale sono pazzeschi. Problema, esce fuori che c'era una lista di tutti diciamo, i marchi che comprano pubblicità su Destination America, che avevano detto ok, noi vogliamo la pubblicità in questo programma nella Do Not Advertise List, cioè nella lista dei programmi in cui non vogliono che il loro marchio appaia, c'era sempre Impact. Quindi in realtà uno show di quel tipo per Destination America era una perdita economica, nonostante il successo di pubblico. Non so se avete mai visto Impact Live, ma tra le pubblicità più ricorrenti c'è una pubblicità di una marca di cateteri. Esattamente. Sì. Il livello è questo, siamo sotto al livello di pubblicità della WWE, ovviamente, e già il livello di pubblicità della WWE è infimo. Eh sì, principalmente è junk food, sì. Nel senso fast al 99%. Fast food locali, non le catene, sì, internazionali. Nemmeno, allora. Esatto, sì, sono solo, non c'è mai stato un McDonald's o un... Ma neanche quei poveracci di Burger King, guarda. Sì, nemmeno, sì. Però è successo che, abbastanza in controtendenza, questo discorso, Destination America ha detto... Però noi prendiamo anche la Ring of Honor per fare una serata wrestling al mercoledì. Questo perché ricordiamo come quelli che dovevano contrattare il contratto della TNA si sono dimenticati di aggiungere una voce che desse l'esclusiva su Destination America, esatto, alla federazione della Carter. Esattamente. Che sono sempre sul pezzo. E non so se vi siete letti la notizia, che mi era sfuggita, l'ho recuperata in questi giorni, del canale in lingua francese in Canada a cui la TNA, che aveva un contratto con la TNA dal 2007 al 2011, la TNA si è accorta solo settimana scorsa che gli mandava le cassette gratis senza diritti e loro le mandavano in onda senza pagare alcun diritto alla TNA per 4 anni. Per 4 anni! Ora, ci sono persone che hanno fatto abbastanza danni alla TNA. Però va anche detto che questo lavoro qua, quando era in TNA, lo faceva Bischoff e lo faceva un pochino meglio di così. Sì. Pochino. Ma giusto un attimo, perché gli puoi dire quello che vuoi. Però puoi questa dire cosa a Bischoff qua Bischoff che ha distrutto, fare, esatto, sti cavoli. Però a livello poi appunto di marketing e cose del genere è un maestro, c'è poco da fare, dai, su. Chi ha visto i ratings che sono usciti stamattina degli show? Alzo la mano, non mi si vede. Li avete già visti tutti? Ieri. Non possiamo fare il gioco, indovina i rating. Non possiamo fare il gioco, facciamolo con un attimo di suspense per il pubblico. Per il allora, pubblico. Okay. Voi dovete segnarvi, scrivetevelo, perché così, non lo so, o pensate da qualche parte. Pare. Esatto. Se siete da un notaio mentre ascoltate è più facile, ovviamente, ma immagino di no. Mi costa 500 euro, però... Okay. Esatto, tranquilli, non preoccupatevi. Allora, abbiamo detto i numeri che faceva la TNA. Non abbiamo detto che lo show Ring of Honor non è inedito. Quello che va su Destination America è il solito show settimanale. 5 giorni in ritardo, non inedito. Esatto, sì, cioè, è il contrario. Inizia ad andare in onda il sabato e finisce al lunedì sulle reti in syndication Sinclair. Sulle reti syndication in seed della Sinclair raggiunge grosso modo 400-500 mila spettatori, se mettiamo esatto, tutto vale. Insieme. Esatto, quindi che numeri possono aver fatto? Abbiamo detto più o meno quali erano i numeri. Ovviamente Ring of Honor, con un show vecchio di 5 giorni, non potrà mai fare i numeri che fa. Sì, non pubblicizzato sul canale, tra l'altro. Esatto, perché hanno fatto una pubblicità, esatto, con un'immagine. È stata, sì, due in realtà, le ho ricontate quando ero visto la puntata. In due, esatto, praticamente una volta a ora hanno pubblicizzato il fatto che ci sarebbe stata la replica dopo Impact. E va detto che comunque Impact è stato spostato. Sì. Sì. Però è stato spostato da una serata orribile a una serata buona per la TV. Sì, perché sì, effettivamente in America sì, Impact era il venerdì sera che il venerdì è il killer, sì, sì, cioè il venerdì è killer per la TV. Ora, quindi voi indovinate il numero, avete 5 secondi, perché Tanto potete sparare. 1, 2, 3, 4, 5. Ora dici i numeri, Alessandro. Allora, il primo passaggio alle 8 di sera della Ring of Honor ha fatto 163.000 spettatori. La replica, subito dopo Impact, ne ha fatti 110.000, per un totale di 273.000 spettatori complessivi. Esatto. E non mi lamenterei. Secondo me è da specificare il fatto che alle 8 è l'orario per la costa est e alle 11 sono... è l'orario per la costa ovest, per diciamo. La costa ovest, sì, sì, diciamo. Quindi... Esatto. Ma Impact allo stesso modo, esatto. Ha cominciato alle 9, esatto, costa con lo stesso ragionamento di orario. Ha cominciato alle 9 della costa est per 297.000 spettatori e è passato sulla costa ovest alle 9, cioè a mezzanotte sulla costa est, con 72.000 spettatori. Un crollo. Esatto, quindi, beh, che la costa ovest non ami la TNA. Non ama abbastanza. La costa ovest non ama la TNA perché ha una tradizione di wrestling abbastanza diversa. Esatto. E ha un grosso senso. Esatto. Vero. Perché c'è un giro di wrestling che è totalmente diverso dalla TNA e la TNA è sempre stata un prodotto costa est o via mid di là, insomma. All'inizio, poi è perché era la TNA era Nashville. Datemi un post. Nashville, grazie. Tennessee. Nashville, Tennessee. Sì, è un prodotto del sud. Esattamente. Poi spostata in Florida. Ma dove anche è la Ring of Honor è un prodotto dell'est. Non, sì, non... però la Ring of Honor è un prodotto assolutamente dell'est, un pelino più a nord. Però va anche detto che, volendo considerare comunque, la TNA ha avuto un pubblico molto diverso dal pubblico indipendente. Sì. E non se ne capacitavano, storia. Stranamente, sin dai primi esatto, giorni. Esatto, stranamente. Sì. Il prodotto non era quel tipo di cosa. La Ring of Honor cattura quel tipo di pubblico. Sì, ma anche vero che la Ring of Honor, prima di avere il contratto su Destination America, non andava con la Sinclair in mercati chiave per il mercato indie come Chicago. Non aveva televisione a Chicago e a Chicago fai alcuni degli house show, perché adesso sono house show, degli show della TNA più scusami della Ring of Honor con della più Ring pubblico. Of Honor. Quindi anche perché gli house show della TNA con più pubblico ci sono 23 persone. Sì, siamo noi quattro che lo guardiamo in streaming. Anche no, facciamo guarda. Più show in TCV, credo. Facciamo più persone in TCV, sì, è possibile. Tra l'altro ci avete lo show stanotte? Cioè, ormai ieri notte perché noi andiamo in onda. Sì, ce n'è un altro anche sabato prossimo, sempre al Legend Club di Milano. Al Legend Club di Milano, 9. Va benissimo questa. Sì, Total Combat Wrestling, era giusto per dire che esiste. Spottone. Esatto. No, perché avevamo citato altre federazioni in altre puntate, quindi insomma. Sì, i numeri per la TNA non sono esaltanti, nel senso che comunque tu hai il primo passaggio di Impact rispetto al 42esimo passaggio della Ring of Honor in TV. Esatto. E i numeri sono abbastanza simili. Cioè, quanto balla? Nella totalità, sì. Allora, ballano 100.000? Sono i sommi tutti, ballano... Sì? 273, 69, 90.000 spettatori. 90.000, sì. Ecco. A mano c'ero arrivato uguale. E... Io aspetterei comunque settimana sì, prossima. Certamente. Bisogna anche vedere la gente che magari... un po' di tempo. Esatto. Il stesso dice, oh cazzo, era il mercoledì, però non è che sto guardando, non è che io guardo Destination America ogni 3 minuti e il sito della TNA è aberrante, quindi non però ti è anche vero esatto. Che la TNA, quando era il venerdì, aveva una demografia completamente sbagliata rispetto al prodotto, tra virgolette, nel senso che prendeva gli over 50. Da morire. Tantissimo. Non so se al mercoledì gli over magari c'è qualcos'altro su Discovery Channel, i signori del barbecue o sa il cazzo che sì, esatto, sì. Ma il problema di Destination America è che in generale, cioè io non riesco a comprendere come Destination America secondo me ha preso il wrestling per cercare proprio di abbassare, secondo me, l'età media, la quota dei suoi viewers. E cercare di prendere nuovi tipi di sponsor che magari dicono: ah, vedi, non è più solo caccia, pesca, barbecue, country, fantasmi e boiate e puttanate che ho dai 40 in su. Adesso. Cerco di prendere dai 30 in giù, magari con un qualcosa, no? Con wrestling. Che sentire mi piace a quella fascia di età, 18, che è quella chiave poi per la televisione, da 18-39, 18-34. Sì. 34. Però secondo me non ci sono riusciti. Sono d'accordo. Ma se la faccenda Mickey James, James Storm servisse per un crossover con uno dei Ghost Hunters. Guarda, secondo me ha senso. Cioè, io ho smesso di parlare questa stronzata, fammi capire. Esatto, la cosa bella è che noi ti stiamo parlando tutti sopra, quindi non abbiamo sentito niente di quello che hai detto. Tranquillo, Matteo, ti vogliamo bene lo stesso. In realtà ha senso perché al venerdì Impact è stato sostituito dalla serata paranormale, effettivamente. Non sto scherzando, non è una battuta. Sì, è vero. Sì, è il prodotto che funziona di più su quel canale, lasciando fuori Impact, se non mi ricordo male. Sì. Quindi ci sta che lui... Esatto, poi hanno che funziona tantissimo anche Mormoni Pelosi e non so cos'altro. Dio sa. Bene. Però ecco, mi sono perso. Mormoni Pelosi. Pelosi? Okay. Non è un programma vero, Alessio. Non ti stupire di Destination America, ma non è un programma vero. Esatto. No, perché avevo capito gelosi, no? Anche. Poi i mormoni sono gelosi perché hanno tante mogli. Esatto. Quindi sono gelosissimi. È proprio una cosa... Parliamo anche degli show. Io non ho visto Impact, ho visto solo il segmento di Mickey James. Però ho visto, sì, io... ho visto Ring of Honor ed è stato uno show normalissimo, anzi forse sotto la media, che non è proprio il massimo. Sì, esatto. Però hanno aggiunto i riassunti nella Ring of Honor prima dei... prima di ogni perché segmento. Devi prendere il pubblico, no? Sì, per prendere il pubblico. Devi prendere il pubblico che non sa chi sei. Sì. Ci sta, effettivamente. Colby Corino è morto contro Moose, non so come... cioè. Sì, bellissimo. Mi è piaciuto, dei bump della Madonna, una cosa che credo che abbia 16 anni o 17 anni. È il figlio di Steve... 18, lo annunciano come 18. Ah, ok, è il figlio di Steve Corino. E non so come Corino possa stare al tavolo del commento a guardare suo figlio che si ammazza in quel modo lì, senza dire niente, perché è veramente terrificante. Però Colby tipo lotta da 14. Sì, esatto. Quindi, diciamo... Bene. Mentre la TNA è tragica. Sì. Perché, però diciamo, cioè, nel senso, non abbiamo parlato. Allora, per me sì. Non riuscirete mai a convincermi. Devo dire che il feud tra la costruzione di Ethan Carter con il feud con Spud e come adesso lo stanno facendo interagire Aries, Angle, Spud e Ethan Carter... Non solo. L'ho trovata ben... buona. Quella è buona in generale, molte cose che sono attorno a Kurt Angle, anche se Angle non è decisamente al meglio, però molte cose che sono attorno a lui a livello di storia sono interessanti. Ecco, tutto il discorso con Eric Young di questo periodo è stato abbastanza interessante. Ma io credo perché lui metta bocca. Cioè? Scusa, cioè... Nel senso che lui, credo, anche perché se non lo fai sei uno psicopatico... ha il totale controllo creativo di quello che vuole fare là dentro. Sì, ci mancherebbe. Cioè, lui abbia detto, che... io rimango nel nulla. Lui rimane perché non ha opzioni. TNA, no, perché non ha opzioni, però lui secondo me ha anche il coltello dalla parte del manico. Cioè, nel senso, lui può dirti che non... Tu puoi pure crederci che non ha opzioni, ma è sempre Kurt Angle. Sì, quindi può andare in... Ergo gli dai... Cioè, ovunque, può gli andare dai wow che in... vuole. Quindi guarda caso le cose interessanti sono con Kurt Angle. Dove... secondo me Kurt Angle... Scusa un attimo. Dove può andare Kurt Angle se non in TNA? Avendo noi preso atto dai dichiarazioni di Kurt Angle che la WWE l'ha rifiutato. Va a fare l'attore. Sì, ma io sono d'accordo con te. Che comunque, insomma, non è che ci abbia sto carrierone. Beh, voglio ha fatto Kuma in The Warrior che faceva il russo. Non... Bellissimo. Ha fatto anche cioè, una parte in Dylan Dog. Quella cosa brutta che è stato Dylan Dog. Esatto. E in Wrestler vs Zombie anche. Esatto, quindi capisci che è una scelta di carriera ottima. Sono per... Vabbè, però... Sì, sono d'accordo con te, però io mi metto nei panni di una federazione che ne dica sta morendo, che quindi cerca di tenersi stretti quelli che sono gli unici che forse ti fanno magari... Tu pensi poi ti facciano quel minimo di audience, perché secondo me l'errore grosso della TNA negli ultimi anni è stato sbagliare proprio... Belle scelte, ma certo. Cioè, basta vedere la questione Samoa Joe. Non solo la questione Samoa Joe. Non era i nomi grossi, era altro la TNA. Non solo la questione Samoa Joe. Con solamente un'apparizione abbia fatto un record di vendita di merchandising da costringere la WWE a metterlo sotto contratto. Non solo quello, cioè... una delle cose particolari della Ring of Honor, va in onda prima di Impact, è che con la partnership Ring of Honor, New Japan, eccetera, eccetera, eccetera, in Ring of Honor c'è AJ Styles, di fatto. Styles ha Esatto. rifiutato la Hall of Fame della TNA. Che è tanta roba, se ci Sì. pensiamo. Non la Hall Credo of Fame, AJ 600, Styles mi è tanta pare roba. 600.000 per un match più lo fame. Gli avevano offerto due match ai due pay-per-view, diciamo, storici, gli unici rimasti, Sì. della TNA, quindi Bound for Glory Anniversary. e con automaticamente l'aggiunta nella Hall of Fame, nella pantomima di Bound for Glory. E lui si è rifiutato. Quando gli hanno chiesto, anche in un'intervista su Twitter, del perché lui avesse rifiutato, gli hanno detto: ma hai rifiutato perché effettivamente ci sono degli attriti con i piani alti, la federazione, la TNA. La sua risposta è stata: sì, è assolutamente per questo. Cioè, non Sì, ha sì. neanche cercato di fare No, no, diplomazia. no, anche Proprio ha perché. detto: no, ho Anche rifiutato perché proprio perché mi sta non ha sui coglioni. bisogno di diplomazia, AJ Pronto? Styles, visto che la sua carriera è andata Pronto? benissimo comunque. Quindi, insomma, È perfino migliorata. Se è sì, rinato esatto. Sì, andando. paradossalmente sì, esatto, sì. Assolutamente. Noi siamo in chiusura, ovviamente in tutto questo vorrei dire che noi speriamo sempre il meglio per la TNA, poracci. Sì, Non è che ma gli vogliamo chiaro, non male. è che io grido per dovete andare tutti a casa a morire di Esatto. fame, però Chi se lo ha meritano, cioè si scritto meritano lo l'ultimo schifo segmento in con cui Mickey sono. James? Magari un po' di fame. Magari a Cioè, che casa merita sì, di non lavorare anche mai più in vita. rapidamente, credo. Perché però raccontiamolo, perché sennò la gente, siccome la gente non vede Impact, Sì, perché noi abbiamo parlato di comprensibilmente. treni per un'ora, Comprensibilmente. È il segmento successo che è... c'è una storia con Esatto. James Storm che sta facendo un doppio gioco abbastanza elaborato. Sì, non è neanche Cioè, male la per quanto storyline, possa. devo dire. Sì, No, l'idea, sì, esatto. esatto, l'idea non è neanche brutta, La è storia non è vero. male. A quel punto, Mickey James non è al corrente di questo doppio gioco, anzi è una pedina, e Storm la accompagna in stazione e la butta sotto a un treno. Con una culata. Esatto, cioè perché non è che la spinge, non è un momento tipo Scar e Mufasa, è Sì, morto Alessio, quindi esatto. ci saluterà un altro giorno. Esatto. Poverino, spiace Alessio, passato il treno, vabbè. Là proprio Mickey James era girata e lui gli dà una botta di anca come se fosse Fandango. Sì, e lui gli dice: ho preso la mia decisione, questa è la mia Esatto. E decisione. poi una cosa profonda è che lui si inginocchia sul binario Parlando. parlando, ma parlando come se lei fosse un chilometro più in basso, cioè c'è un metro lì, eh. Sì, Vabbè. esatto. E poi si sente in lontananza vagamente un suono di Senti, treno, come se ti stia arrivando, ti. che comunque non ha senso, perché se tu vedi l'immagine, loro sono accanto a una specie di Sì, cioè treno. quanto l'ha lanciata lunga? Qual è il vero potere del Esatto, sedere cioè di loro sono James Storm? accanto, a parte sono in una delle stazioni più strane del mondo, perché è un corridoio strettissimo con un treno fermo, con fuori la luce dell'infinito. A un certo punto arrivano dopo questo treno fermo, che lei cade di sasso, quindi neanche viene lanciato Sì, da lui. esatto. Arriva il treno, senti il rumore, lo lancio e si spegne tutto. No, la butta sotto, lei fa solo ah! Silenzio. Lui dice due minchiate, questa è la mia Tramortito. decisione. E poi si sente in lontananza il suono del treno, finito il segmento. Il tutto registrato, ed è una delle cose che odio di più, ma da sempre è questo della TNA, come se fosse una telenovela messicana. Sì, Con questa fanno telecamera delle che scelte di c'è ma non fotografia c'è. agghiaccianti. Ma non solo, è la cosa che non mi piace è che sono segmenti off screen, però registrati come fossero un telefilm. Cioè, c'è la telecamera, ma è come se loro stessero parlando tra di loro in camera loro in una serie TV. In più con delle visualizzazioni appunto da telenovelas messicana tragica, Ho secondo un me. update direttamente dal sito della TNA, perché sono andato a Attenzione, verificare è questa viva, cosa. vai. Mickey James non solo è viva, ma apparentemente Ok. ha solo una commozione cerebrale, o neanche ha dei Oh. sintomi di una commozione cerebrale, no? Perché symptoms of a Ok. concussion, Quindi proprio non ha un quindi cazzo. non è... Cioè, Non tutto stopato per niente. A sto punto potevano farla rapire da degli Erano alla uomini stazione vestiti dei di... Sì, treni di non è... Nashville, comunque, se vi... Ah, per sì. Andrò a localizzare. cercare delle foto Non ci vere della credo, neanche se mi stazione. fanno Vedere vedere le se era foto. così, guarda. Va benissimo. Noi, niente, stiamo provando a riprendere Alessio, ma ce lo siamo perso. Siamo comunque in chiusura. Mi fa piacere aver raccontato questa piccola gemma di televisione. Quindi io vi ringrazio per essere stati con noi. Cioè, con me, in effetti. E ci... Esatto, vi No, noi ringrazio non molto. contiamo. Noi No, non contiamo no, io nulla. ringrazio Tu sei il voi. nostro No, no, io ringrazio voi leader. due per essere stati con me e ringrazio voi pubblico per essere stato con noi quattro, ormai tre perché è passato il treno a Milano. E noi ci sentiamo settimana prossima e parleremo quindi di qualsiasi pay per view che la WWE ci tirerà addosso senza dircelo prima. Ma in questo caso ce l'hanno detto prima. Esatto. Esatto. Ciao. Ciao. Ciao a tutti.